nanana. Ehi tu sue non ca brucia. Ogni musica la sento in giullaria. Non me dà l'effetto dell'uraga quando si suona. Ida me face viaggiare, ida me ruba lo cuore. Face capisco l'importanza de nu rastaman. Ogni musica la sento in giullaria. Non me dà l'effetto dell'uraga quando si suona. Ida me face viaggiare, ida me ruba lo cuore. Face capisco l'importanza de nu rastaman. Ogni bagnar la sente discute de tutto. Se non gli piace cangia, torna sullo genere so. Ci è delusa lento, sente l'uraga. La piccola Giamaica, l'utacu dell'Italia. Ehi, rispetto ogni bagna ragazzo un po' questa musica. Perché da senza già ne cala. Mi piace, ne piace a tutti. E ne denoni di mciolla dentro. Ehi, che li problemi cadeniano non ci penso. Ogni musica la sento in giullaria. Non mi dà l'effetto dell'uraga quando si suona. Ida me face viaggiare, ida me ruba lo cuore. Face capisco l'importanza de nu rastaman. Ogni musica la sento in giullaria. Non mi dà l'effetto dell'uraga quando si suona. Ida me face viaggiare, ida me ruba lo cuore. Face capisco l'importanza de nu rastaman. Scrivo le parole, io le suddivido in sillabe. Tu buona medica, ci minto io le virgole. E guide che sta senti, non sono tu semplici lettere. Vieni su una base di gumena, mo campuna le. Mena manisha, damo uscire la dancehall. Se lezioni de fuego, come un bushu panton. Rieste le liriche, mo qua desti bagnoni. Casa non cucchia, dimo sempre gusti doni. Ogni musica la sento in giullaria. Non me dà l'effetto dell'uraga quando si suona. Ida me face viaggiare, ida me ruba lo cuore. Face capisco l'importanza de nu rastaman. Ogni musica la sento in giullaria. Non me dà l'effetto dell'uraga quando si suona. Ida me face viaggiare, ida me ruba lo cuore. Face capisco l'importanza de nu rastaman. Mi piace li sento, lupindo me non è un po' nane ogni momento. Sopra lo ritmo raga, puro guido lento. Caccia nella raggia, c'hai mi trasentimento. Solo ritmo, vai giusto. Giusto. Tu ritmo me face ballare. E vede riesco. Senza musica me ve ne compacisco. Questo se non su capace si può crisco. Fammi a gira sto disco.